Buonasera e ben ritornati a, sulle frequenze di Radio Città Fujiko per Mighty FM. Chi vi parla è Claudia Mighty Mau. Come sempre siamo qui con una sigla molto più corta perché abbiamo una playlist molto molto intensa, tutto ciò per ascoltare il nuovo disco di Beirut, ovvero il progetto principalmente è scaturito dalla visione musicale di Zach Condon from Albuquerque and Santa Fe, New Mexico, in occasione dell'uscita del quinto album il 1 febbraio scorso per la 4AD dal titolo tutto nostrano Gallipoli. Come sempre ricostruiremo la carriera di questo musicista e della sua band, inframmezzato dall'ascolto del nuovo disco e soprattutto dalle influenze dichiarate da lui stesso in un articolo intervista per The Line of the Best Fit, e questo fa sì che ci sarà insomma della musica abbastanza insolita qui a Mighty FM, ma iniziamo con il primo pezzo che apre il disco, When I Die. Prima canzone scritta e registrata di tutto il disco e quindi doveva assolutamente dare l'inizio al disco. Scritto in un periodo in cui Zach stava lasciando New York per trasferirsi a Berlino, dove vive attualmente, è una canzone appunto sulla fine, su chiudere una fase della propria vita, e dice appunto che il testo fa riferimento a questo, della serie cos'è la cosa peggiore che può succedere? Potrei morire? Ma dicevamo che seguiremo anche un po' un elenco di canzoni che lui ha indicato come essere state veramente fondamentali nella sua formazione musicale. È una sua formazione musicale che in questo caso è iniziata a 3 anni con l'ascolto di... Surfer Girl, tratto dall'omonimo album del 63, terzo album per i Beach Boys, che vabbè, dopo Surfing Safari, Surfing USA, Surfer Girl, album che a sua volta contiene altri quattro titoli con il nome Surfer, appunto nei titoli delle canzoni. Zach dice: ho sentito per la prima volta questa canzone a 3 anni, era la mia preferita perché è la prima che mi ha fatto drizzare i peli sulla nuca, mi ha fatto venire la pelle d'oca, e avevo 3 anni, non riuscivo a capire come la musica potesse fare un effetto del genere. Dice: avevo una cassetta e la suonavo su questa piccola Fisher Price karaoke machine, e ha suonato questa cassetta fino a che il nastro non si è distrutto, fischiava eccetera eccetera. Mio fratello più grande un giorno l'ha presa, l'ha portata nel giardino e l'ha calpestata perché non ne poteva più, e dice: ora non ho più la cassetta, ho il disco e la uso per testare le nuove casse ogni volta che ho delle nuove casse. Ma come inizia l'epopea dei Beirut? Zach Condon nasce ad Albuquerque il 13 febbraio 86, cresce a Santa Fe e inizia ad appassionarsi alla tromba grazie alle bande di mariachi che vedeva appunto nella piazza della sua città, ma anche appunto poi anche il jazz, una delle sue principali influenze, insieme alla musica balcanica, alle fanfare appunto di Ottoni, quindi anche quelle dei funerali del sud Italia, e anche alle musiche felliniane, il tutto grazie al fatto che dall'età di 14 anni inizia a lavorare in un cinema che proiettava film stranieri, film internazionali, che non è affatto scontato negli Stati Uniti. E quindi vede un sacco di film europei e si appassiona a questa, alla world music dal suo punto di vista, quando dal nostro punto di vista spesso appunto è quella dei continenti africani, asiatici. Poi lascia la scuola a 17 anni, fa un viaggio in Europa col fratello Ryan e, tornato dal viaggio, dove comunque era andato in vacanza, anche lui stesso dice questa cosa viene molto romanticizzata, in realtà andava in giro con gli altri ragazzi, bevevo sulla riva della Senna, insomma ha fatto una vacanza, però insomma è tornato con questo bagaglio musicale e si iscrive all'Università del New Mexico, Albuquerque, per studiare portoghese e fotografia, ma non per molto. Poi un altro viaggio in Europa dove dice: ho incontrato persone che mi hanno mostrato come suonare il mio strumento, e all'età di 20 anni comincia a registrare proprio nella cameretta della casa dei genitori in Santa Fe quello che poi diventa il disco di debutto, Gulag Orchestra, di cui stiamo ascoltando la title track. E allo stesso tempo comincia a collezionare strumenti esotici, dischi. E per quanto riguarda appunto il successo del disco d'esordio, fondamentalmente qualcuno lo ha ascoltato, lo ha mandato un'etichetta, dopo in qualche modo è finito online e alla gente piaceva moltissimo. Io ero assolutamente scioccato, perché è incredibilmente gratificante capire di non essere pazzi. ma noi siamo qui per ascoltare Gallipoli, il nuovo quinto album, e questo è il secondo pezzo dell'album, nonché la title track. E in un pezzo come questo sembra appunto un instant classic che ci ricorda ai suoni passati di Beirut che abbiamo imparato a conoscere, anche se io, come ho dichiarato, non li ho mai frequentati molto. La storia di questo pezzo è che il disco è stato scritto soprattutto a Berlino, qualche pezzo ancora fatto a Upstate New York, e poi non ho investigato per quale motivo sia finito a registrare al Sud-Est Studio di Guagnano ad un'ora da Gallipoli. E lui racconta che una sera siamo finiti a Gallipoli proprio nel momento in cui partiva la processione, la statua del santo portata dai preti, seguita da questa fanfara di ottoni, e noi ci siamo persi nelle stradine che salivano. Serata passata a Gallipoli, tornano nello studio e lui dice: giorno dopo ho scritto la canzone in una giornata, fermandomi solo per mangiare, tipo 10-15 ore filate di composizione del pezzo, come in uno stato di trance. E quindi è molto legato a questo pezzo perché è come un mix catartico dei vecchi dischi e dei nuovi, e per lui ha rappresentato proprio un ritorno alle vecchie gioie del fare musica come un'esperienza viscerale. E quindi questa è diventata la logica poi dietro a tutto l'album, quindi logicamente doveva essere la canzone che dava il titolo al disco, perché racchiude appunto quel sentimento che lo spinge a scrivere musica. Ma sì, dicevamo, The Gulag Orchestra, scritto nella cameretta, ma poi rifinito e registrato in studio, un posto, un luogo che lui non ama, con l'aiuto di Jeremy Burns e Heather Trost, duo che forma A Hawk and a Hacksaw, sempre di Albuquerque. Quindi, aiutandolo a registrare, hanno partecipato appunto anche al disco, sono stati praticamente i primi collaboratori di Beirut, quando Beirut era ancora solo Zach. E appunto stiamo ascoltando un pezzo di Hawk and a Hacksaw dal loro ultimo disco, Forest Bathing. Un dopo attività in attività discografica dal 2002, arrivati ora al 8° disco. Anche loro una grande passione per la world music, riferimento Forest Bathing è quello ad un concetto giapponese. Della terapia che può fare la natura. E come Beirut sono nomi di luoghi. Insomma, un po' una particolarità di Beirut che è come insomma sfogliare un atlante, guardare un mappamondo. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama The Shepherd Dogs Are Calling. A differenza di tante band che iniziano con un singolo, con un EP, a ricostruire, insomma, se fa fede la discografia contenuta in Discogs, Beirut esordisce con l'album The Gulag Orchestra, edito come appunto tutte le prime uscite dalla Badabing Records di Brooklyn, che tra nomi recenti vede anche Julie Byrne. This town, I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. E probabilmente uno dei primi pezzi che la mia memoria collettiva di noi personale è questa Elephant Gun. Questo è proprio il classico suono di Beirut. Quindi esordio a maggio 2006 con Gulag Orchestra, e a fine anno invece esce il Long Gisland, Gisland direi, invece di Long Island, o forse si pronuncia sempre Long Island, un EP che conteneva appunto questa bellissima Elephant Gun. dopo l'accoglienza positiva del disco d'esordio, Zach si trova nella condizione di dover trovare degli altri musicisti per portare un po' in giro la sua musica. Elephant Gun uscirà anche come singolo poi nell'estate successiva del 2007 ed è anche il primo video, infatti il primo video è Elephant Gun, il secondo video invece che hanno fatto è Postcards from Italy, sempre tratto da Gulag Orchestra, che già appunto contiene tanti nomi, Brandenburg, Bratislava, ricordi di viaggi, anche se a sentirla a me Bratislava io l'avrei chiamata più Siviglia o Granada, ma vabbè, magari per gli americani d'Europa è tutta uguale. Dicevamo appunto l'etichetta Badabing, che è anche la prima etichetta di Sharon Van Etten, cui ha pubblicato il bellissimo Epic, ma anche Demon and Naomi, Six Organs of Admittance. E che però vede una distribuzione importante in Europa, ovvero quella della 4AD già da allora. Ma un'altra influenza dichiarata è quello dei Neutral Milk Hotel, cui ascoltiamo The Fool dal loro album più famoso del 98, In the Airplane Over the Sea. Anche qui marce fanfare e soprattutto lo stesso Jeremy Burns degli Hawk and Haxo, che era il batterista. Band che ti fece conoscere il fratello più grande quando Zach aveva 13 o 14 anni. Il fratello si sposta a New York e gli lascia questa cassetta. E lui dice: mi ricordo di aver pensato, questa è una delle cose più belle che ho mai sentito. E ha capito, appunto, sentendo questo pezzo The Fool, ha capito qual era esattamente il tipo di canzone che avrebbe voluto scrivere. E quindi è stata una grandissima ispirazione per Gulag Orchestra, ovviamente. Ma siamo tornate a Gallipoli, uscito, come abbiamo detto, il 1 febbraio 2019. Siamo dedicati un po', abbiamo fatto un po' di puntate con le uscite un po' tralasciate del 2018, ma il 2019 ci ha portato questo Gallipoli e questa è Varieties of Exile. It's a good life, wait and it's over, everywhere, ever. If there was doubt, it's getting colder. di questa canzone. Zack dice in un articolo su Consequence of Sound, molto tecnico proprio a livello musicale, che insomma non prendeva in mano un ukulele per scrivere una canzone da un sacco di tempo, ma lo ha attaccato ad un vecchio amplificatore Fender e gli è piaciuto così tanto che ha tirato fuori pure la fisarmonica, cosa che anche non faceva da anni e che insieme andavano bene, e quindi la canzone è venuta fuori in modo molto naturale, e anche la parte vocale in modo molto tenero, forse troppo, dice, cioè penso che mia nonna avrebbe apprezzato. Se lo strumento principe attorno a cui ruota tutto il disco è un organo farfisa vecchio, malandato, mezzo rotto, che ha una storia sentimentalmente molto importante. La leggenda narra che un circo, ovviamente itinerante, era passato per Santa Fe e avevano fatto il loro spettacolo nello spazio esposizioni galleria che faceva parte del cinema dove lui lavorava per $5.25 all'ora, addirittura sappiamo anche questo. E questo organo aveva i tasti rotti, faceva appunto tutti questi ronzii e problemi tecnici, quindi loro l'hanno mollato lì. Ma siccome lui insomma si era fatto un po' una nomea di questo tipo strano che collezionava ogni tipo di strumento strano, lo hanno chiamato e hanno detto: ma ti interessa questo organo? E lui ha cominciato a scrivere musica su quell'organo e fondamentalmente i primi due album, e poi è stato abbandonato. È stata abbandonata a Santa Fe, lui si era trasferito a New York, ma ogni tanto lui ci pensava. Ma in realtà la seconda release dove compare il nome Beirut, poco dopo il debutto, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun, when the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement, waiting on death row. You can crush us, bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Split single della City Slang per la sua serie Mini Slang, dove c'erano i Calexico con questa cover di Guns of Brixton dei Clash, e dietro c'era una traccia di Beirut, Interior of a Dutch House, che non ascoltiamo, ma invece ascoltiamo i Calexico per questo trattamento particolare. Surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, it feels like having born another Brixton son. His game is called surviving. At the end of the harder they come, when the law breaks in, how are you gonna go? Shot down on the pavement, waiting on. Us, bruise us, have to answer to. band storica di Tucson, Arizona, che mischia l'indie con l'americana, il Tex-Mex, la musica di mariachi. Nunca te rindas, piensa en tu gente, María Negra, seca tu frente, Santa María, María Negra, cuida tu tiempo, cuida tu suerte. E infatti in questa versione Guns of Brixton c'è una voce di un cantante probabilmente messicano che canta questa preghiera a una Madonna Negra. Your hands on your head or on the trigger of your gun. You can crush us, bruise us, but you'll have to answer too. Adesso mi rendo conto che c'è stato un po' di confusione nel track listing, in quanto il pezzo che noi ascoltiamo sarebbe il decimo di Gallipoli e invece arriva così, lieve e delicato, è Light in the Atoll, quindi non un toponimo ma il nome di una conformazione geografica. Come sia successo tutto ciò non lo so. Dicevamo dell'organo Farfisa, ogni tanto appunto lui ci pensava, infatti ha anche scritto la canzone Santa Fe su quell'organo, poi a un certo punto ha chiesto al padre se glielo spediva a New York. E poi da Brooklyn è passato appunto alla casa Upstate New York a Westchester, dove ha cominciato a scrivere le prime canzoni di Gallipoli all'inizio dell'inverno 2016. Questa appunto è una delle canzoni scritte ancora a New York, quando era in uno stato di isolamento dove ascoltava tantissime colonne sonore dei film di Wong Kar Wai, e questo mi ha colpito molto perché ascoltando un'altra traccia io ho pensato proprio questo pezzo potrebbe essere una colonna sonora del film di Wong Kar Wai. E lui dice che è un pezzo che si ricollega alla musica che faceva ancora prima di Gulag Orchestra e che è stato come finire un pensiero iniziato 13-14 anni fa. poi ovviamente, a parte la questione di orgoglio personale, è vero che non si può apprezzare l'ordine dei pezzi ascoltati così inframmezzati da tante altre musiche, ma ovviamente ci si pone sempre una particolare attenzione generalmente. Infatti in questo album c'è un'alternanza tra pezzi cantati e pezzi strumentali, un po' degli esperimenti sonici, quindi questo appunto doveva essere verso la fine del disco. Ma torniamo alla storia discografica di Beirut. Ascoltando Mon Pomona, tratto da Pompei con due i. Un singolo di tre tracce diffuso solo digitalmente. Nel febbraio del 2007. Non so, riascoltandolo adesso, soprattutto all'inizio, ho sentito un eco dei primi Smiths, non so. Ma ecco, tornati appunto a brevissima distanza, di solito metto più di un pezzo tra le tracce dell'album che stiamo ascoltando, invece adesso siamo subito tornati a quelli che dovevano arrivare subito dopo Varieties of Exiles, ovvero On Manao Island. Anche qui un riferimento geografico, ovvero una località, si tratta di un'isola del lago di Costanza in Germania. È appunto uno di quegli esperimenti sonici che lui spiega appunto in modo molto dettagliato. Cioè l'uso del farfisa, l'uso degli amplificatori, stava un po' improvvisando. E il coproduttore del disco, non l'abbiamo detto, il disco è prodotto da Zach Condon e da Gabe Walks, che ha lavorato anche con Speedy Ortiz, Soccer Mommy e Adrian Lenker dei Big Thief. Ha registrato questa improvvisazione. E c'è un riferimento alle Library Tapes di Berlino, ovvero questi nastri che erano appunto strani esperimenti sonici fatti negli anni 70 con nastri e sintetizzatori. Ed essendo una traccia breve, ci abbiamo voluto unire quella successiva, ovvero I Giardini. dicevo che io i Beirut non li ho mai calcolati, a volte li ho anche sofferti a fatica, nel senso che dopo un po' mi annoiavano. Però ho cominciato ad ascoltare questo Gallipoli, mi è piaciuto molto, perché comunque, a parte il suono riconoscibile, ci sono un po' di esperimenti, c'è un po' di modernità e comunque appunto il tocco per la melodia ce l'ha, non c'è niente da fare. E dal punto di vista della spiegazione tecnica del pezzo, lui dice: passavo 3 giorni a rifare le percussioni e le batterie, ma non andava bene niente. Avevo fatto un demo di questa canzone a Berlino e però insomma non si andava da nessuna parte. Alla fine Stefano del Sud-Est Studio ha chiamato un senegalese che viveva da quelle parti, insomma, provincia di Lecce, e è venuto e ha portato appunto tutte queste tecniche di percussioni africane. E ci è piaciuto tantissimo, ci ha mandato veramente, ci ha fatto proprio esplodere il cervello, e a quel punto ho capito che era la cosa giusta. Non è una pubblicità. Ma è King Tubby, anzi, per essere più precisi, Augustus Pablo in King Tubby in Keep on Dubbing, tratto da King Tubby Meets Rockers Uptown del 76, credo. E questo perché lui dice appunto nell'elenco della musica che lo ha influenzato, dice: non so se questo può sorprendere la gente, ma io ascolto un sacco di dub e reggae proprio in quantità incredibili, io e mio fratello siamo veramente ossessionati. Cioè, perché appunto considera la musica dub il primo tipo di musica a concentrarsi proprio sul processo della registrazione come forma d'arte, e quindi come si uniscono insieme gli strumenti, come vengono fuori appunto su nastro. E ha scelto King Tubby perché appunto è uno dei suoi preferiti e considera questo pezzo uno dei più affascinanti pezzi musicali mai fatti per quanto lo riguarda. E questo è anche stato un'ispirazione per l'album successivo, poi uscito nell'estate del 2007, ovvero The Flying Clap Cup, e si può sentire, lo dice anche lui nel pezzo che si chiama Anant. Anzi no, The Flying Clap Cup, The Flying Clap Cup è uscito nell'ottobre del 2007 e viene anche definito, o perlomeno è stato anche promosso a livello pubblicitario, come The French Album. Infatti ci sono moltissimi riferimenti alla Francia nei titoli delle canzoni, nei suoni. Perché comunque insomma ci sono stati dei viaggi ripetuti in Francia, dove comunque anche quando è andato nel primo viaggio in Europa faceva anche basker per le strade di Parigi. D'abord il y'a l'aîné, lui che è come un melon, lui che ha un gros nez, lui che sait plus son nom, monsieur. E una delle grandi influenze è il belga Jacques Brel, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui che complètement cuit et qui se prend pour le roi. qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La e mère stiamo ascoltando ces gens-là, ovvero quelle persone. Tratta dall'album omonimo del 66. Il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Io amo particolarmente la chanson de Vis Amantes. Et ça fait des grands. Et puis elle est toute vieille. Et poi le porte d'Amsterdam. Et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille. Et qu'on écoute ma. Fatta da Bowie. Ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis. Et puis. Et puis. Il y a Farida, qui est belle comme ça. Et qui m'aime pareil. Cioè, questo è un altro esempio di un concetto semplice arrangiato in modo così brillante, così geniale, che ti porta in un mondo completamente diverso. Perché il pezzo inizia con due note suonate ripetutamente, ripetutamente, e racconta una storia. E il cantante è il narratore. E poi c'è questa escalation, perché tu capisci che mano a mano che parla, che si sfoga, è sempre più ubriaco. E poi appunto arrivano i fiati e solleva il pezzo in modo incredibile, come se fosse appunto il personaggio stesso, il narratore, che si alza di colpo dalla sedia, che cade a terra. Semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. E dicevamo l'influenza francese in The Flying Club Cup, sempre con distribuzione nel Regno Unito, Europa e Russia, della 4AD. Monsieur, il faut que je rentre chez moi. E che dicevo appunto, nei nomi delle canzoni c'è molta Francia, oltre a Nantes c'è la banlieue, c'è Clicquot, c'è Cherbourg. Insomma, ci sono almeno tre posti al mondo citati dove io sono stata. E è proprio Clicquot che ascoltiamo. Mighty FM non suona mai gli stessi pezzi, però, perché questo l'abbiamo messo in una trasmissione dedicata a Grizzly Bear tanti tanti anni fa, era la quarta stagione, la trasmissione dedicata a Shields. Non ricordo adesso quale fosse il collegamento con i Grizzly Bear, ma sicuramente abbiamo suonato questo pezzo, che però vede la presenza molto riconoscibile di Owen Pallett, sia nella composizione che nella voce, nello stile. What melody will see him in my arms again? poi c'è un'altra canzone che si chiama Un dernier verre pour la route, ovvero anche quello che dicono gli americani, One for the road, l'ultimo bicchiere prima di mettersi in strada. Chissà, forse in questi cori c'erano anche i Grizzly Bear. In effetti, tra le cose che ho letto, Zach dice che ha registrato un pezzo con Chris Taylor, il bassista, quindi insomma si conoscono. Perché? Perché comunque dopo la registrazione dell'album nel 2007 Zach si trasferisce a Williamsburg, Brooklyn, proprio pre-hipsterismo. E si sa insomma com'era la scena di Brooklyn di quegli anni lì. Ma anche quest'album è stato registrato in gran parte in uno studio improvvisato, in uno spazio che tra l'altro era stato utilizzato precedentemente e lasciato da Hack and Hacksaw a Albuquerque, ma completato nello studio degli Arcade Fire nel Quebec. Lui racconta: Owen Pallett ha barattato del tempo nello studio di registrazione di Arcade Fire in cambio di qualche arrangiamento di archi, insomma barattato la sua prestazione d'opera con il tempo in studio per finire l'album di Beirut. E siamo tornati a Gallipoli, in questo Goes für Zah, che però appunto sarebbe lui, Zach. E adesso a sentirlo, anche questo inizio un po' Grizzly Bear. Anzi, se non sapessi che è Beirut, penserei che sono i Grizzly Bear e Trost. Questa canzone Zach dice: è stato un piacere e una liberazione scrivere questo pezzo, puro divertimento. Sento molta catarsi in questa canzone. Modo sempre nei testi viene fuori il casino del mio passato, sembra succeda sempre così, il mio cervello musicale, la parte più del subconscio, sembra sempre avere delle grandi emozioni e sentimenti che lo percorrono, eccitazione, malinconia, mi piace questa cosa, io seguo l'intuito perché non ho nessun controllo su questa cosa, cerco solo di canalizzarlo nel modo migliore che posso. Ecco perché io odio scrivere testi, cioè perché la musica è trascendente, mentre a me viene sempre di scrivere dei testi banali e troppo personali. Tra l'altro, appunto, se lui potesse esprimere un desiderio, sarebbe appunto una delle canzoni senza parole, una musica solo strumentale al mondo. Ed è anche per questo che prima si registra la musica, poi dopo lui da solo in privato, perché non vuole avere nessun testimone, nessuna audience, registra la voce. E dice: anche questa coda ambient mi sembrava necessaria, una specie di riposo, uno stato di riposo sognante prima che inizi il lato B dell'album. Ci sono proprio orgoglioso di come ho scordato gli strumenti, perché lavoro un sacco per scordarli nel modo giusto. E abbiamo nominato Owen Pallett, e non potevamo non mettere Owen Pallett perché ci piace tanto tanto tanto. E il suo lavoro come arrangiatore di archi, eccetera, anche per Charlotte Gainsbourg, ciao Sarda, gli sta impedendo di fare un nuovo disco dopo il bellissimo, che ho scoperto troppo tardi, In Conflict. L'ultima traccia. Every time I sing you say that I'm gaslighting. Del 2016 è questa Transformer Guitar Demo, contenuto in una compilation dal titolo Art Week 2016, pubblicata da questa etichetta misteriosissima che si chiama Unlimited Free Milkshakes. Che è stato l'artefice della rifinitura del secondo album di Beirut, un album ispirato alla chanson francese, non solo Jacques Brel ma anche Gainsbourg, Yves Montand, dal cinema e la cultura francese in generale. Abbiamo detto il disco uscito nell'ottobre 2007, preceduto da uno dei famosi takeaway shows di Vincent Moon e la Blogotech. Però poi insomma ci sono stati anche dei problemi e non era stata la prima volta, ovvero cancellazione di tour europei già nel 2006, dopo due mesi di tour negli Stati Uniti, arrivato in Europa nell'autunno 2006, era assolutamente discombobulated all the time, cioè scombussolato, confuso, non sapeva neanche dov'era e quindi aveva annullato il tour allora perché è un po' gracilino, un po' cagionevole. E purtroppo lo fa di nuovo nell'aprile del 2008, cancella il tour europeo che era previsto per l'estate. E quindi saltiamo al 2009. Quando esce Dark Was the Night, la famosissima compilation della Red Hot Organization curata dai fratelli Dessner, The National, che abbiamo nominato mille volte e suonato anche My Brother's Diamond, abbiamo suonato il suo pezzo, e Beirut partecipano con questo pezzo che stiamo ascoltando che si chiama Mimizan. Caso vuole, perché per fare le cose in ordine cronologico vado a vedere anche il giorno d'uscita delle varie release, Dark Was the Night esce il 16 febbraio del 2009 e lo stesso giorno esce un'altra pubblicazione a firma Beirut, che comunque insomma si è cancellato il tour, era stanco ma non è stato con le mani in mano, per esempio per avere il controllo sulla sua musica si è creato la sua etichetta, ovvero a Pompei Records. Se appunto nel 2006 era uno stato di exhaustion, di esaurimento psicofisico, la cancellazione tour europeo è stata causata dal problema di voler fare le cose tanto in grande e non riuscire a starci dentro. Voler fare dei spettacoli, dei concerti dando il massimo, avere tante cose in ballo contemporaneamente, da appunto aver bisogno di una pausa. E siamo tornati a Gallipoli con un altro pezzo geografico, ovvero Corfù. Grazie a questi strumentali molto molto belli che questo disco suona, insomma, nuovo, anche se non tutti i critici lo hanno apprezzato. Metacritic comunque ci dà un 75 su 100. E di questo pezzo Zach dice: è un altro dei miei esperimenti stile library tapes, sono assolutamente orgoglioso di questo, perché è come un salto in un diverso tipo di musica, che però si sente che sono ancora io. E poi dice tutte altre cose tecniche che non provo neanche a tradurre. Insomma, la media viene tirata giù da dei voti, un paio di voti un po' impietosi, perché se no abbiamo un 9 di The Line of Best Fit, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nel senso 7 voti, 8 tra Uncut, Music, Rolling Stone, Enemy e Q Magazine. Poi c'è un 6,6 di Pitchfork. Una sufficienza, un paio sufficienze, no, 3 sufficienze, 4, 5. E poi Sputnik Music che gli dà un 4. Tra l'altro Sputnik Music mi pare una testata anche abbastanza piccola. Che dice che sì, il disco è carino, è piacevole, però insomma è la fine, cioè i Beirut sono finiti. Ma cosa stiamo ascoltando? Un'altra delle influenze dichiarate da Zach. Ovvero Taraf de Aidux, una banda zigana, ovvero Rom di Romania. Questo pezzo vede la partecipazione della Kokani Orchestra, che appunto è una banda macedone con cui Zach ha suonato a Parigi nel suo viaggio del 2007. E questo pezzo si chiama Alaturk, contenuto in Band of Gypsies del 2001. E ci ho sentito questa canzone quando lavoravo al cinema e è come se mi avesse aperto un mondo. Ci sono un sacco di archi, di fisarmoniche e altri strumenti. Ci sono queste melodie schizofreniche, cupe. Non esiste una scheda di Wikipedia in inglese né in italiano. Un gruppo in attività dal 90 che viene dalla città di Clejani a sud di Bucarest. È appunto il gruppo più famoso di questo genere, appunto di musica zigana dell'era post-comunista. Invece la Kokani Orchestra, sempre di Rom, musicisti Rom di Kokani o Kociani, non capisco mai come si legge quel simboletto, la pipetta sopra la C, macedoni, la regione che adesso dopo trattati con la Grecia si chiamerà Nord Macedonia, perché la Grecia non voleva rinunciare al nome storico della propria regione Macedonia, e questi poveretti dopo la dissoluzione della Jugoslavia si chiamavano Firom, che era un nome diciamo burocratico, ovvero Former Yugoslav Republic of Macedonia, credo, cioè insomma a naso. Dicevo, il 16 febbraio 2009, lo stesso giorno in cui esce Dark Was the Night, esce la prima pubblicazione della Pompei Records, ovvero un doppio EP dal titolo March of the Zapotec / Holland, a firma di due entità apparentemente diverse, ma si tratta sempre di appunto, due facce della stessa medaglia. We'll be right back. la prima metà a firma Beirut, March of the Zapotec, e stiamo ascoltando un breve pezzo che si chiama On a Bayonet. Contiene dei pezzi che sono il risultato di un viaggio di Zach e altri membri di Beirut nella regione messicana di Oaxaca, esattamente nella cittadina di Teotitlan del Valle, dove hanno suonato appunto con una banda locale di 17 elementi, che è una band, insomma, vabbè, una banda, un gruppo che accompagna i funerali, la Jimenez Band, e questo grazie alla madre di uno dei musicisti di Beirut che faceva l'insegnante parte dell'anno appunto in questa zona del Messico. E quindi alcune cose registrate lì, alcune cose recuperate in altre sessioni, altre influenze, altre cose, Zach ha messo insieme questa metà. Ma invece l'altra metà è a firma Real People. E io dico, chi sono i Real People? È Zach, ovvero il suo progetto da cameretta, il suo progetto elettronico, inditronico da cameretta, che precede i Beirut. E in alcuni casi l'effetto, insomma, della base elettronica con questa voce fa appunto l'effetto postal service. E stiamo ascoltando un pezzo di un pezzo a firma Real People, ovvero My Wife Lost in the Wild. E ci abbiamo attaccato invece un altro pezzo dell'ultima traccia di questa metà più elettronica di questo doppio EP a firma, questa metà a firma Real People. Si tratta di No Dice. Riservate a Gallipoli, appunto 6,6 di Pitchfork, che dice che appunto non ci sono pezzi particolarmente di nota, tranne appunto Corfù. E dice che insomma suona un po' più come musica da sottofondo. E dice che insomma non c'è niente da fare, il suono dei Beirut riporterà sempre a quel mitico 2006 del loro esordio. E non importa quello che farà Condon, ma la sua discografia verrà per sempre associata alla nostalgia per quell'epoca più innocente dell'indie rock. Dice non c'è niente di male voler continuare a fare musica che fa riferimento, insomma, che desidera, insomma, che anela ad un momento culturale che è già passato. Perché dice che insomma la costante ossessione di Condon per l'anacronismo a volte si insomma porta dei bei risultati, però altre volte la sua musica, ascoltare la sua musica è come parlare a degli amici delle superiori con cui hai perso i contatti, insomma ci sono dei bei ricordi, ma poi alla fine insomma è un po' difficile sentirsi veramente eccitati per qualcosa che è veramente così appartenente al passato. Me lo tolgo mica dalla testa che adesso tutte le canzoni mi sembrano un po' simili a Two Weeks, pure quell'epoca dei Grizzly Bear, ma invece Landslide. Gallipoli e Corfù, pubblicati nell'ottobre quando è stata annunciata l'uscita del disco, poi è stato diffuso anche un video a gennaio per questa canzone, un po' Game of Thrones nel Far West, in quanto il cavaliere protagonista di questo video è l'attore Ian Beatty, ovvero il cattivissimo Sir Meryn Trant, appunto di Game of Thrones. Una canzone molto carina, molto piacevole, lui dice un'altra produzione catartica, e spesso mi chiedono se c'è un senso politico in questa canzone, anche perché ho lasciato gli Stati Uniti dopo le elezioni, infatti la canzone dice c'è una valanga, una slavina a casa. E dice no, il Trump e il trumpismo possono marcire all'inferno e spero che si estingua come i dinosauri. Però insomma io non faccio musica politica, non c'è niente di male, ma personalmente mi ripeterò dicendo che per me la musica è troppo sacra per sporcarla insomma con qualcosa di disgustoso come la politica. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. E stavo ascoltando Chico Buarque, Construção, tratto da Construção del 1971. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Cantautore, chitarrista, compositore, drammaturgo, scrittore e poeta brasiliano, ovviamente. Fosse príncipe. Perché questo appunto è uno dei pezzi preferiti dichiarati insomma come influenza per Zac. Per una canzone che viene considerata a ragione uno dei suoi capolavori, con una tensione che non si arresta mai, cresce e cresce. Si acabò no chão feito un pacote flácido. E dice: ciò che mi piace della sua musica è che mentre il resto degli altri musicisti della sua generazione erano dentro appunto il movimento Tropicalia, lui invece era quasi un po' tipo un Sinatra brasiliano. Ed è per questo amore che ho per la musica brasiliana che ho studiato anche portoghese all'università, anche se per poco. Beijo sua mulher como se fosse a única. E perché l'abbiamo messa a questo punto? C'è sempre un perché. Como se fosse o pródigo e attraversò a rua con seu passo bêbado. A construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. L'abbiamo messa a questo punto perché siamo arrivati idealmente al 2011 e nel 2011 esce un'altra compilation della Red Hot Organization, ovvero Red Hot in Rio numero 2, perché c'era già stata una compilation appunto dedicata alla musica brasiliana e anzi appunto c'è anche un duetto tra Beck e Seu Jorge appunto di Tropicalia. E in questa compilation compare anche Beirut con una cover di un pezzo brasiliano, ovvero O Leãozinho, ovvero il leoncino. Era una canzone di Caetano Veloso e sfuma quindi Chico Buarque, che dovevamo assolutamente citare. Dicevamo il 2011 e poi appunto l'anno di... di The Riptide, terzo album di Beirut e soprattutto di Santa Fe. Il pezzo probabilmente più conosciuto, probabilmente anche a me appunto mi è entrato nella testa con questa canzone qua, probabilmente anche usata nelle pubblicità. Tra l'altro avrei dovuto anche vedere dal vivo per quella tournée, ma poi niente, shit happened. Appunto state ascoltando per la prima volta appunto il disco interamente, sembra appunto un suono un po' più personale, nel senso che c'è l'influenza della musica europea sempre presente, ma un suono un po' più pop. E per la prima volta tutta la musica è stata registrata dal gruppo che ha suonato tutti insieme contemporaneamente, non appunto tracce poi sovrapposte in studio. Influenzato anche dall'aver collaborato con Bon Iver in For Emma Forever Ago, e infatti andava in tour con Bon Iver. Tanti posti al mondo era ora, no, che facesse anche una canzone sulla sua città, Santa Fe. E comunque appunto sempre delle sfighe, leggo che ha deciso di scrivere l'album dopo un tour in Brasile, appunto, che è stato molto molto pesante, perché appunto anche ha avuto la perforazione di un timpano. Tante le canzoni belle in quest'album, A Candle's Fire, East Harlem e Goshen, che è appunto il singolo che ha preceduto di un po' l'uscita del disco, che appunto ricordiamo che è un vero e proprio album di Beirut, a parte March of the Zapotec e Holland, non usciva dal 2007. E in due pezzi di The Riptide ci canta Sharonetta nella succitata Candles Fire e in Paints Bay. E quando ho detto che sì, insomma, siamo partiti con i Beirut, con i dischi del 2019, non è che non siano usciti già bei dischi, ma erano tutti gruppi su cui noi abbiamo già fatto delle trasmissioni speciali. C'è Sharon, c'è James Blake di Runter, e il disco di Sharonetta uscito il 18 gennaio, Remind Me Tomorrow, era quello con la votazione più alta su Metacritic. Vedo ora in questo momento che proprio oggi è stato superato da altri due dischi di artisti che non conosco. Tempo fa abbiamo ascoltato in trasmissione un altro pezzo di questo bellissimo disco, ovvero Comeback Kid. E questo è un altro dei singoli video. Dal titolo Jupiter 4, dal nome del sintetizzatore che la fa da padrone questa canzone. elenco delle canzoni che hanno ispirato Zach Condon, c'è anche The Big Ship di Brian Eno, ma guarda caso l'abbiamo appena messa nella trasmissione dedicata ai Virginia Wing, appunto perché per Sam Pillai di Virginia Wing è stata veramente una grandissima ispirazione per l'ultimo disco Ecstatic Arrow, su cui abbiamo fatto un nostro specialone, e sfuma purtroppo Olivia, non mi odiare, questa bellissima Jupiter 4, tanto noi il 5 aprile ce la vediamo a Berlino. Altro pezzo importante per Zach è lo stupore della notte spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te, poi nel buio le tue mani telefonando di Mina, contenuto in Studio 1 66, uno dei tre album di Mina del 1966, parole anche, appunto come narra la leggenda, di Maurizio Costanzo, musica di Ennio Morricone. E Zach dice: stavo cercando di trovare delle canzoni che mi facessero venire la pelle d'oca, che mi facesse voglia di correre in giro all'isolato quando le ascolto, e questa canzone proprio mi manda fuori di testa. È una semplice melodia discendente con lo stesso tipo di note che si ripetano, con una, appunto un cambio di progressione di note, e questa per me è l'essenza della scrittura di una canzone, e il modo in cui lei canta è fottutamente epico. So ogni parola, anche se non so una parola di italiano. E Ennio Morricone, appunto, racconta, e l'ho letto, infatti, sembra che fosse a Marsiglia e che ha sentito le sirene di un'ambulanza e ha creato la melodia della canzone basato su questo. Forse, appunto, non tutti lo sanno, e quindi si collega a The Riptide, perché appunto la title track è molto molto bella, io la volevo mettere in trasmissione e poi non c'è stato modo, però appunto dice: io mi ricordo che poco dopo ho scritto proprio la canzone The Riptide con insomma avendo in testa Se telefonando, e appunto come dovrebbe funzionare il songwriting: un piccolo semplice momento di ispirazione e poi fai un'orchestrazione della Madonna intorno. Takes us back ashore. Let's get out more. Dreams of open doors till I fell off the horse. Let's begin more with the family girl. Tornati a Gallipoli, Family Curse, ma maledizione di famiglia, ne so qualcosa. Zach dice: c'è un delizioso mix di strumenti, organi a pompa, vecchie drum machine, trombe e sintetizzatori analogici. Eh sì, dai, è bella, molto bella. E facciamo un salto a 4 anni dopo, quando arriva il 4° album di Beirut, ovvero No No No, il primo vero album totalmente fuori di nel 2015, poco apprezzato dalla critica, invece a me piace perché non è noioso, c'è varietà, c'è modernità, e che è un disco che arriva dopo un periodo un po' complicato nella vita di Zach, che nel frattempo si era stabilito con la fidanzata, poi moglie, a Istanbul. In realtà ci viveva, insomma, più o meno 6 mesi all'anno tra il 2012 appunto e il 2016. Quindi poi c'è il divorzio, poi un ricovero in Australia sempre per esaurimento psicofisico dovuto all'intensa attività live. Però il disco si apre con questa Gibraltar, anche questo è un posto dove posso dire di essere stata, che è abbastanza classico. Però non... Io non so, i primi dischi che sono i più osannati, che hanno i voti più alti, io li trovo noiosi. Sarà anche un po' che dopo i 20 anni, adesso ne ha una 30, insomma, anche la voce si è un po' scurita, no, a volte la trovo anche un po' stucchevole. Cioè, ha una base quasi... ecco, da Jackson 5, ecco. Abbiamo aggiunto un pezzo strumentale che si chiama As Needed. Che invece ha un suono un po' bossa nuova. Molto delicato. Va a finire che il disco meno apprezzato è quello che mi piace di più. No, no, no. Forse con questo pezzo che ho pensato a Wong Kar Wai. Ho scoperto anche che un altro progetto parallelo di Zach Condon si chiama 1971, e invece del 72 mi pare è questo fichissimo pezzo, uscito appunto come singolo nel 72 e poi contenuto in un sacco di altre raccolte, ad opera di Özdemir Erdogan, ovvero cantautore turco. Di discendenza armenia, dal lato materno. Yoksa yarın göz yaşlarım uya. attivo musicalmente dal 68, è appunto uno dei pezzi citati da questo elenco di tracce che ha ispirato Zach. L'abbiamo suonata tutta, a parte Brian Eno, perché l'abbiamo messo poco tempo fa, e dice: ho avuto una fase intorno ai 17 anni quando non ne potevo più dell'indie rock americano e insomma anglosassone, e mi ricordo che ho sentito questa canzone in una colonna sonora di un film, e questo mi ha fatto veramente appassionare alla musica balcanica. Vabbè, siamo un po' più là, e quindi ho cominciato a cercare musica turca e ho imparato che un sacco di musica per ottoni balcanica era basata su melodie turche. D'altra parte sì, ci sono passati, ci sono stati tanto, insomma, storicamente. E ho scelto questa canzone, che non abbiamo detto il titolo, si tratta di Gurbet. Ho scelto questo perché, insomma, alla fine sono finito a Istanbul appunto per 4 anni, tra i 26 e i 30 anni ci passavo 6 mesi l'anno, e mi sono messo a collezionare un sacco di rock anatolico degli anni 70. Questa canzone mi piace particolarmente perché è molto rilassata, molto, però molto intensa. E poi, siccome non è una canzone tanto conosciuta, insomma, volevo nominarla, insomma, per dare appunto riconoscimento a degli artisti magari che non sono tanto conosciuti. E quindi segnatevelo: Özdemir Erdogan, Gurbet. We never lived here at all, never saw what they saw, and how she said, it's strange when you call. We never lived here at all, hung our coat in these halls. Light came and went through shades close to us. In mezzo doveva esserci Life in the Atoll, ma l'abbiamo sentita prima, e siamo arrivati alla fine unendo i due pezzi conclusivi di Gallipoli. Questa è We Never Lived Here, e qui ci sento un po' della tristizia, un po' di Owen Pallet. Appunto, dopo divorzio, una nuova fidanzata, ritorna a New York e voilà, inizia nell'inverno del 2016 la scrittura dei primi pezzi di Gallipoli. Infatti questo è uno dei pezzi scritti in Upstate New York prima di trasferirsi a Berlino. Un pezzo nato da una melodia per trombone e tromba. E dice che vocalmente la tonalità è più bassa rispetto alla sua estensione, e quindi lo fa sentire particolarmente esposto. Mi sentivo completamente nudo cantando appunto la parte vocale, ma penso che appunto il punto era proprio quello, è la fine dell'album, e quindi avevo bisogno un po' di spogliarmi. Insomma, come tanti, insomma, alla fine è finito anche lui a Berlino. Di solito sono musicisti che fanno elettronica, ma voglio dire, anche la presenza balcanica e turca a Berlino è incredibile. E come può chiamarsi il pezzo conclusivo del disco? Fin, ovvero fin, immagino, la francese. Definita da Zach una marcia modulare, con dei loop e un pianoforte, un'armonia vocale che è come un sospiro di sollievo per aver realizzato che, eccola, che ancora una volta era riuscita a completare un disco. Delle voci armoniche alla Beach Boys, quelle stesse di Surfer Girl che tanto lo hanno affascinato da piccolissimo. E dice: alla fine volevo che il suono dei synth modulari si trasformassero in sirene stridenti, e ho spinto il più possibile senza danneggiarmi l'udito, ed è così che finisce Gallipoli e finisce Might FM. Chi vi ha raccontato i Beirut è Claudia Mighty Mau. Ricordiamo, 18 aprile all'Alcatraz di Milano, Beirut Live con supporto Helado Negro. Ciao a Claudia Mighty Mau.